c'è stato questo abbassamento delle pretese dell'azione dell'opposizione cominciata martedì mattina, pretendendo di avere l'esercito dalla propria parte e quindi sostanzialmente di fare quello che molti soggetti hanno chiamato, tra i quali per esempio il governo spagnolo, hanno chiamato colpo di Stato, e quindi mandar via Maduro in un modo o nell'altro, mandar via Chavez, e risolvere la situazione venezuelana e vivere tutti felici e contenti. Nel corso delle ore, anzi direi abbastanza presto, si è capito che questo era un po' pretenzioso, diciamo, prima di tutto perché i militari non sono stati disposti a uscire, se non in numero minoritario, dalle caserme, cioè abbiurare al ruolo che da loro non soltanto la Costituzione venezuelana, ma la civiltà di rapporti all'interno di regimi più o meno democratici, più o meno funzionanti, che è quello che i militari debbano stare nelle caserme. Quindi sono rimasti nelle caserme quelli che si erano schierati con l'autoproclamato presidente Guaidó, che li aveva invitati appunto a fare un colpo di Stato, per parlarci chiaro. Poi all'opposizione piace cambiare i termini della questione, però di colpo di Stato si tratta quando si pensa ad andare nella casa del governo e tirar fuori quello che ci sta dentro, comunque ci stia dentro, che sia buono o cattivo, eccetera, e mandarlo via. Questo si chiama colpo di Stato, e quindi si sono trovati in una trentina, tra i quali c'era solamente un generale importante perché era il capo dei servizi venezuelani, ma nessuno altro. E anche le proteste di piazza, alle quali aveva convocato sia Guaidó che quello che è il suo superiore nel partito e nella gerarchia, anche nel carisma politico dell'opposizione venezuelana, Leopoldo López, che era uscito dagli arresti domiciliari, sono state di media portata, esattamente come di media portata sono state quelle del chavismo. Quindi in buona sostanza l'ennesima giornata decisiva in Venezuela si è risolta con un nulla di fatto. Ecco, per quanto riguarda l'opposizione, diciamo, il personaggio di Guaidó era uscito fuori negli ultimi mesi, fondamentalmente se ne è parlato molto, ma tu dicevi López fondamentalmente rimane il vero leader di questa opposizione. López rimane il vero leader innanzitutto del suo partito, perché poi all'interno dell'opposizione, l'opposizione in un contesto nel quale il chavismo ha polarizzato così tanto il quadro politico nel bene e nel male, è composto da persone diversissime, da persone di una sinistra liberal progressista fino ai neonazisti, per dire, Alejandro Peña esclusa, che veniva portato in Italia da alcuni qualche anno fa come se fosse un immacolato Gandhi e invece era un neonazista fondamentalmente, apertamente antisemita, eccetera. Però non tutti gli esponenti dell'opposizione venezuelana sono Alejandro Peña esclusa. Però sì, Leopoldo López insieme a Capriles Gradovski, eccetera, sono stati le due figure che negli ultimi anni, uscito un po' di scena Manuel Rosales, eccetera, ma ci sono parecchi altri e di posizioni politiche diverse. Ci sono quelli più a destra che vogliono sistematicamente un'uscita violenta, quelli più moderati che invece puntano comunque a trovare una via del dialogo. Diciamo così, la parte di López e Guaidó sta un po' nel mezzo, perché ogni tanto gioca con la violenza, ma poi appunto fa questa giocata che dovrebbe essere istituzionale, dovrebbe mantenersi all'interno di un processo costituzionale. In realtà è un gran casino, lasciatemelo dire così, da una parte e dall'altra. Ognuno si appella alla Costituzione, ognuno spaccia l'altro per essere il più antidemocratico possibile, ma le cose non si spostano da qui, anche perché ci sono questi attori esterni, in particolare gli Stati Uniti, ma evidentemente non solo gli Stati Uniti, che tentano di tirare per la giacchetta una parte e l'altra. L'opposizione questa volta è stata palesemente invitata a una rottura istituzionale in tutta questa giocata di Guaidó, che ricordo a fine gennaio si è autoproclamato presidente perché non riconoscevano il secondo mandato di Maduro. Il primo mandato di Maduro lo avevano riconosciuto, il secondo mandato di Maduro no, per alcune ragioni che loro consideravano sufficienti, ovvero non consideravano valide le elezioni di maggio 2018. e quindi questo qui si è autoproclamato sulla base di un articolo della Costituzione, sostenendo che la Costituzione effettivamente dà al Presidente dell'Assemblea Nazionale il ruolo di proclamare nuove elezioni, di essere Presidente interino e chiamare a nuove elezioni entro 30 giorni. Questo qui non è una cosa un po' noiosa forse, ma è una cosa abbastanza importante, perché in buona sostanza su queste questioni giuridiche si sono giocate un po' delle discussioni di questi mesi e di queste settimane, perché da una parte c'erano alcuni europei, in particolare gli spagnoli, che hanno riconosciuto, il governo spagnolo è sempre stato contro i chavisti in maniera molto forte, hanno riconosciuto Guaidó, ma a patto che rispettasse questa cosa di chiamare elezioni entro 30 giorni. Invece altri, per esempio gli statunitensi, delle elezioni fondamentalmente non sono particolarmente interessati. C'è Guaidó, che è il loro presidente, e non importa che questo Guaidó in buona sostanza sia una figura virtuale, non governi affatto, ogni tanto dà ordini che nessuno esegue, appunto martedì mattina ha ordinato a tutto l'esercito di andare a prendere il palazzo della presidenza e non è successo nulla. Da un certo punto di vista mette anche un po' tristezza questo ragazzo di 35 anni, dei panni molto più grandi di lui, che speriamo che non si concludano con degli eventi drammatici. Purtroppo la drammaticità dei fatti venezuelani è già nelle cose, tra questa crisi dalla quale il chavismo non sa trovare le giuste risposte, l'iperinflazione, una condizione sicuramente di democrazia malata, ma che allo stesso tempo non può prescindere dall'esistenza di milioni di chavisti delle classi popolari. Questi qui esistono, anche se non piace dirlo ai grandi media, non piace dirlo ai grandi governi occidentali. Il chavismo esiste, i problemi che pone il chavismo, quelli innanzitutto di ridurre le enormi disuguaglianze sociali, e dando a questo il nome di socialismo, il chavismo esiste e continuerà a esistere, come in questi tre mesi abbiamo visto. I chavisti sono rimasti in piazza, non li fanno vedere, non li mostrano, ma ci sono milioni di chavisti che continuano a credere che il governo di Nicolás Maduro non solo sia legittimo, ma possa essere a lungo andare anche la soluzione ai loro problemi. Magari si sbagliano, però questo pensano milioni di venezuelani, mentre altri milioni di venezuelani invece vedono come la peste a questo punto il chavismo. Ecco, proprio sugli scontri, diciamo, tra questi milioni di venezuelani, diciamo, la domanda d'obbligo è quanto ci si sta avvicinando, quanto si rischia una guerra civile o comunque uno scontro in Venezuela? Allora, il Venezuela è un paese dove tutti sono armati fino ai denti, entrambe le parti, dove appunto se l'esercito sta nelle caserme fa il proprio dovere, che è quello di essere stato ricondotto. Io lo dico in qualunque situazione, cioè c'è questa stereotipo per certi versi degli eserciti latinoamericani, che sono quelli golpisti, che sono quelli torturatori, che sono quelli che mettono sistematicamente bocca nelle cose della politica, e questo è vero che è successo moltissime volte, però la generazione dei militari latinoamericani della Guerra Fredda, diciamo così, aveva qualche ragione per porsi in questa maniera, perché era stata addestrata la controinsurgenza, addestrata la violazione dei diritti umani, addestrata a prendere il potere nel contesto della Guerra Fredda, in un contesto nel quale loro si considerano tutori dell'ordine in nome delle classi dirigenti, non in nome della democrazia, in nome delle classi dirigenti si consideravano tutori. Ebbene, sono passati molti decenni e la generazione attuale, anche di alti gradi degli eserciti, non ha ricevuto questo addestramento, per fortuna. E noi di tutto questo dobbiamo essere molto contenti che in America Latina si sia riflettuto su questo. Certo, è costato centinaia di migliaia di morti, desaparecidos, genocidi come quello in Guatemala, è costato orrori terribili, ma la società latinoamericana, un po' come ha fatto la società europea dopo la Seconda Guerra Mondiale in contesti diversi, eccetera, ha riflettuto molto su questo. Quindi se io, facendo evidentemente la figura dell'ingenuo per molti, dico: e se i militari latinoamericani di questa generazione fossero migliori di quella precedente e hanno accettato che il loro posto è nelle caserme? Io questo penso che sia una riflessione che vada fatta. E anche se non fossero migliori, anche se stessi sbagliando completamente, il posto dei militari è delle caserme. Chi avventatamente, tra l'altro il presidente del Parlamento europeo Tajani, plaude a un eventuale colpo di Stato, plaude all'uso dei militari, grandi giornalisti come Gianni Riotta, eccetera. E io, è meglio che eviti di dare un giudizio su queste prese di posizione. Stanno chiamando il mostro, stanno chiamando il Leviallira del Leviatano, la cosa più orribile della storia latinoamericana, i militari che escono dalle caserme e prendono il potere. Da questo nella storia non è mai venuto nulla di buono. I militari non prendono il potere per il bel visino di Juan Guaidó o di Leopoldo López o di Lilian Tintori, prendono il potere e poi vediamo. Ecco, e invece tu appunto prima citavi anche la guerra fredda, diciamo un clima, quello che sembra essere ritornato nella narrazione della questione venezuelana, si parla molto spesso degli interessi contrapposti di Stati Uniti e Russia, che sicuramente hanno un'agenda politica diciamo in Venezuela, ma non sono i soli, anche il Brasile per esempio potrebbe giocare un ruolo molto importante. Sì, evidentemente ai media mainstream, ai grandi media, questa cosa di rievocare la guerra fredda, USA URSS eccetera, manca solamente appunto che chiamino la Russia Unione Sovietica invece di Russia e poi abbiamo finito, insomma piace moltissimo, evidentemente questa cosa c'è, però allo stesso tempo stanno facendo una semplificazione enorme, che per esempio appunto come giustamente dici prescinde dal ruolo del Brasile. Il ruolo del Brasile è un ruolo importante, cioè qui siamo pieni di nuovo, mi dispiace ripetermi, di stereotipi, di luoghi comuni, il cortile di casa, tutte queste cose qui, la dottrina Monroe, che sono quelle due o tre cosarelle di base che la gente si ricorda da scuola, ma intanto il cortile di casa non è il Sud America, è il Centro America e i Caraibi, sono luoghi come la Repubblica Dominicana, Haiti, Cuba prima della rivoluzione, il Nicaragua, eccetera, ma gli Stati Uniti non hanno mai deciso in maniera esclusiva quello che succedesse in Argentina o in Brasile, neanche nella stessa Venezuela. Non funziona così. Poi sono un attore geopolitico fondamentale, ma in Sud America l'attore geopolitico fondamentale è il Brasile. Ed è un Brasile che è governato da dei generaloni molto di destra che sì, ce l'hanno a morte con i chavisti e se potessero eliminarli li eliminerebbero volentieri, ma allo stesso tempo hanno una loro visione geopolitica ed è una visione geopolitica nella quale gli Stati Uniti non devono mettere piede. Su questo qui su questa cosa qui nella stampa italiana non c'è mai alcuna riflessione. Il vicepresidente brasiliano Hamilton Mourão, che secondo moltissime mie fonti è una testa pensante molto più importante di quella del presidente Jair Bolsonaro, a fine febbraio è andato a Cucuta dove si è fatta tutta la sceneggiata del concerto, degli aiuti che poi sono stati bruciati dagli antichavisti stessi, come ha dimostrato il New York Times, non lo dico io. Hamilton Mourão è andato lì e si è riunito, credo ci fosse onestamente in questo momento mi sfugge chi ci fosse degli Stati Uniti, ma un altissimo responsabile, c'era il presidente colombiano Duque, c'erano tutta una serie di figure fondamentali, è andato Guaidó uscendo, che poi ha fatto il suo lungo viaggio in molte capitali, e Morali ha detto no, voi non mettete gli stivali sul campo in Amazzonia, perché in Amazzonia nessuno mette gli stivali sul campo senza che il Brasile lo decida, il Brasile non lo vuole. Il Brasile è tutto meno che bolivariano e se potesse archiviare l'esperienza della rivoluzione bolivariana l'archiverebbe domani mattina, magari anche favorendo un colpo di Stato militare. Non è che stia dicendo che siano buoni i generali brasiliani, no, in nessun modo, ma hanno un'agenda loro, non è un'agenda supina agli interessi degli Stati Uniti, non stanno lì a fare i burattini come vengono descritti sempre i latinoamericani, come se fossero tutti quanti non dotati di una loro agenda e di una loro volontà. E i militari latinoamericani, i militari brasiliani, chiedo scusa, non sono disposti a far entrare gli statunitensi, come stanno molto prudenti rispetto a quello che può fare la Colombia. La Colombia che è un paese che sì, è più massa di manovra disponibile per gli Stati Uniti e l'esercito colombiano è molto più disponibile. Perfetto, io ti ringrazio. L'ultima cosa che ti chiedo, per quanto sia sicuramente difficile, è, diciamo, molto velocemente, secondo te cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi mesi, se è possibile averne un'idea? Difficile e molto velocemente si dà con seria difficoltà, si dà. Guarda, io non so cosa aspettarmi perché il precipitare della crisi è sempre dietro l'angolo. Io appunto ho scritto nel mio sito anche oggi, l'ho detto anche in varie istanze nelle quali sono stato invitato a parlare, che questa situazione deve essere ricondotta in ogni caso al dialogo, deve essere ricondotta perché la possibile precipitazione in quella che per comodità chiamiamo guerra civile, che poi potrebbe prendere anche delle forme per le quali qualcuno spacca il capello in quattro e dice questa non è una guerra civile, esattamente come dicono questo non è un colpo di Stato, eccetera. Però chiamiamola guerra civile e troviamoci d'accordo su questo, è un qualche cosa che può succedere. Può succedere con l'esercito coinvolto, può succedere con l'esercito dietro le quinte, può succedere con attori esterni. C'è questa cosa della quale scrive la Reuters di Blackwater, che è la compagnia privata di mercenari che ha fatto disastri terribili in Iraq, accusata di crimini contro l'umanità inenarrabili, che avrebbe formato, starebbe formando una truppa di 5.000 mercenari da far intervenire sullo scenario venezuelano, pagati 40 milioni di dollari, questo scrive la Reuters, non lo dico io, pagati da ricchi venezuelani antichavisti da Madrid, questo è quello che scrive la Reuters, l'ho anche linkato se a qualcuno interessa questa cosa. Ecco, questi qui potrebbero entrare ovviamente in maniera non ufficiale, totalmente clandestinamente, potrebbero rendersi autori di qualunque efferatezza, mettere bombe, boicottaggi, sabotaggi, omicidi mirati, eccetera. Dopo lì non si sa più. Mi nascondo dietro Papa Francesco e continuo a dire che l'unica soluzione è il dialogo, l'unica soluzione è che questa gente, chavisti e antichavisti, che sono così bravi ad andare in piazza entrambe le parti e a dimostrare fede nel regime democratico in qualche modo, anche se metà del paese vuole che l'altra metà sparisca, però continuano a dimostrare in qualche modo fede i venezuelani. Io sono molto ammirato dai venezuelani anche in questi ultimi mesi. E queste persone si devono parlare e la comunità internazionale dovrebbe semplicemente favorire il dialogo, che è una cosa che ben pochi attori, io distacco che lo stiano facendo Papa Francesco, distacco che lo stia facendo il nuovo presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, in qualche modo lo sta facendo la Spagna, per certi versi io credo che possa stare avendo un ruolo non nefasto Federica Mogherini, lo sta avendo Tabaré Vázquez, e quasi mi fermo lì, non saprei dire quali altri attori, ma non vedo alternativa che questa gente si parli e trovi una maniera poi di arrivare magari anche a un processo elettorale che però non possa cancellare il chavismo. Chi voleva cancellare il chavismo in questi 3 mesi deve accettare che il chavismo esiste e che continuerà a esistere, che continuerà ad avere un ruolo nella storia politica venezuelana. Se no finiamo come nel 55 in Argentina, che c'è stato il colpo di Stato, ci sono voluti 18 anni per fare tornare al governo i peronisti e dopodiché ci è voluto un genocidio per non riuscire a eliminare i peronisti. Prendete atto che i peronisti sono un attore della vita politica argentina, che vi piaccia o no, può tranquillamente non piacere.